Avanti, amici miei, ridete dei vostri problemi. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Io ho scelto l'altro Vladimir, io preferisco Vladimir Putin, però ognuno è libero di essere amico anche di Vladimir Luxuria, che è una persona rispettabile. Così la vede Matteo Salvini della Lega, io preferisco Vladimir Putin. Salvini è andato in Russia, a Vladimir Luxuria. Effettivamente è così, però guardate che in realtà Silvio Berlusconi ieri ha incontrato Vladimir Putin anche, anzi ha avuto l'autorizzazione speciale dal giudice Beatrice Crosti, il giudice di sorveglianza, per poter in qualche modo, perché è l'affidamento dei servizi sociali, insomma ha avuto un permesso speciale Silvio Berlusconi per incontrare Putin, quindi in realtà incontra tutti i Vladimir che gli passano sotto tiro di questo periodo, Silvio Berlusconi. Allora, siamo qui alle 6:31, questo è 24 mattino, ben ritrovati da Alessandro Milan, è venerdì e si chiude oggi la 76esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché decisiva per l'abolizione delle province. È stata decisiva? No, vabbè, ci sarà la 77esima, abbiate fede, abbiate ottimismo e raccontateci quello che state facendo al 349-238-6666, è il numero per i vostri sms. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione e l'alpino Peter Bescapè in regia. Vedo gente rinvigorita oggi dopo la festa di due giorni fa dei 15 anni di Radio 24, ora li sento tonici, li vedo attivi. Ebbene, allora possiamo aprire il Parlamento? Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi, grazie. È il Parlamento che può aprire. Intanto saluto Silvia Brasca del TG della 7. Buongiorno Silvietta, come stai? Buongiorno, buongiorno. Sei sempre un po' più in giù in classifica, ma va benissimo così. Fatemi un po' godere con l'interista Silvia Brasca, insomma, che dobbiamo fare per qualche settimana ancora? Siete sotto, va bene. Ma cara Silvia, è un momento, io non lo so come lo trovo di umore nei miei confronti, perché c'è da spiegare, è successo un po' un problema. Per cui magari è un po' arrabbiato. Spero di no, spero che tutto si sia ricomposto con difficoltà. È Albertone Forchielli che trova Hong Kong. Buongiorno Forchielli, come va? Ciao Aldino, bene. Tutto bene? Bene. Tutto bene? Sei cattivo come una puzza, però fa lo stesso. No, come sono mi storpi il nome, no. Dei tweet minatori, sì. Ma no, sì. No, spieghiamo. Il gioco in difesa oggi. Spieghiamo agli italiani. È uscita un'intervista sulla rivista Riders. Mi hanno fatto un'intervista e per quei refusi non c'entro niente. No, l'hai fatta apposta. Ma non è vero. Ma giuro di mai. No, perché sono i poteri forti. No. È uscito il nome Fonchielli con la N. Da quel giorno non me la perdona più, ma ti giuro che non è. No, è iniziato. È una campagna contro di me. E tu sei lo strumento. No, lo strumento di chi? È lo strumento dei poteri forti. Dei poteri forti, vabbè. Come Silvia Brasca, c'è il complottone anche qui, c'è il complottone. Ma no, giuro Alberto, non volevo storpiare il nome. No. Vedremo a fine trasmissione, vabbè. Allora, da che cosa vogliamo iniziare? Avete visto, Silvia, hai visto che Renzi ha litigato con le regioni? Eh Sì. Con Chiamparino. Come scrivono i sindacati ieri. Sì, con i sindacati. Ma tra l'altro questa cosa strana, ieri Chiamparino qui alle 8 del mattino era nostro ospite, ha detto la manovra, sì, ha criticato Italia, ha detto no, però la manovra gli do un bel 7, ha detto, perché poi si è riunito con gli altri presidenti di regione, è uscito, ha detto no, inaccettabile, vergognoso, e qui è finita in rissa. Sentite Renzi, Renzi ieri al vertice ha risposto alle regioni così. Noi buttiamo giù le tasse di 18 miliardi, è inaccettabile che ci siano polemiche su questo tipo di operazione, di qualcuno che dice beh allora noi le rialziamo a livello locale per 1 miliardo di euro, trovo che sarebbe un atto sinceramente al limite della provocazione. Al limite della provocazione, vabbè. Ma di tutto questo, Forchielli, perché Forchielli ha un Kong, cosa arriva di tutto questo? Lì c'è la protesta degli studenti, Forchielli. Sì, ma è finita. Ormai li hanno... Sì, sono rimasto un piccolo gruppuscolo, erano in tre aree, le hanno pulite, è stata molto bella, però senza speranza. Senza speranza. Hanno però, sì... ragazzi splendidi, educatissimi, è stata una protesta di una profonda civiltà, hanno creato un nuovo modello di protesta che può fare molta strada in Asia. Ma infatti ti hanno visto questa anche protesta civile, ti hanno visto educata, anche lì, in piazza con loro. Sì, mi sono commosso, perché io poi sono... C'erano tutti questi ragazzini che mi hanno visto e mi facevano un sacco di festa, poi c'erano degli sbarramenti e io ho 120 kg, 58 anni, e passavo sopra questi sbarramenti e loro cercavano di darmi la mano. Come testa di ponte. 50 kg. C'erano delle scalette provvisorie, io mi arrampicavo, loro che pesavano 50 kg, cercavano di darmi la mano, non si rendevano conto che se io cadevo gli spapolavo, capito? Proprio sì. E quindi mi hanno proprio, c'era il cibo gratis, era veramente una cosa bellissima. Vabbè, mi ha molto preso. Beh, insomma, Silvia Brasca, hai capito? Qua Forchielli usato come poteva essere usato come arma di in realtà dall'esercito cinese per ucciderne un po'. Come un ariete, si scherza ovviamente. Vabbè, ma Alberto, hai visto questa manovra? Di tutto questo a Hong Kong, qua si parla di tagli di 18 miliardi, un miliardino. Il DPS aumenta lì, togli là, dai 80, cava 60, sforo un po', ma meglio di no, asca pespi un cazzo, non si capisce un cazzo. Io ho capito che Renzi sfora, fa un gran 18 miliardi minori tassi, 10 più 8 incluso l'IRAP, e poi dopo li copre con eventuali risparmi che non si sa quali siano, con una diminuzione dell'evasione che anche lì è tutto da quantificare, e poi dopo premendo sulle regioni, però le regioni hanno la spesa sanitaria. Io gli ospedali recentemente l'ho visti molto a corto di soldi, di materiale. Ma sì, qui bisogna capire chi ha ragione. Silvia, secondo te ha ragione adesso le regioni? Perché pare che Renzi abbia detto sì, tra poco allora pubblicheremo online, mettiamo tutto online le spese. Lui quando sente proprio il gusto del nemico, allora non arretra di un passo, anzi no, dice vuol dire che ho fatto dice bene oggi Repubblica che come Murigno adoro il mi piace il rumore. No, ma è vero, ma fanno bene però, le regioni a protestare secondo te? Ma perché è tutto fumoso. Io ti spiego una cosa che appena ho sentito, ma già non ieri, appunto l'altro giorno quando aveva annunciato tutti quei tagli, mi sono permessa di sentire il nostro amico Perotti, che è della sua squadra, sì, no? Sì. E che io reputo una persona molto seria. E lui ha detto le coperture ci sono. Tra l'altro, facendo questo lavoro qua, mi sono accorto che la ragioneria dello Stato è molto severa, funziona benissimo, e ha detto si può fare. Ho sentito anche la Lesina, e la Lesina dice che se la copertura non c'è, non si può fare. Sono due persone serie tutte e due. Allora, uno dice che i soldi ci sono, no, non lo so. Però ti lo conosciamo, è davvero persona seria, cioè, se si parla di tagli, di saper fare i conti, lui c'è ed è in prima fila. Insomma, questi soldi ci sono o no? Forchielli, ci sono o no questi soldi? No, ma non ci sono, finiremo declassati a CCC. No. Ossia, che cazzo contate? No, no, no, questo il nuovo Moody's, il nuovo indice Moody's. Sì, beh, andiamo a CCC. Sì, vabbè, ho capito, ma allora che vabbè, allora però capito, poi anche lì Renzi, questa storia Italy's back. Se continua così rischia l'overdose. Se gli fanno un palloncino diventa una mongolfiera, dico io. Perché addirittura? Cioè, lo vedi un po', sì, un po' lanciato a fare dei proclami. Sì. Contro un muro, sì. No, contro un muro no. Beh, a proposito, secondo me lui si è confuso con il terreno di giocattolo della Merkel quando dichiara che l'Italia sarà il locomotore d'Europa. Ah, quei famosa marca di trenini tedeschi, sono i migliori, ecco. Vabbè, sì, ma esatto. A questo punto vorrei capire però il tuo punto di vista sulla questione, invece, quello che sta succedendo a Milano. Milano è blindatissima. Ieri sono andati in motorino, appena vai, prendi il motorino, ti inseguono poliziotti. Si faccia la parte, auto blu. Ci sono tutti i leader mondiali, no, in Italia. Allora, ci sono anche i cinesi. Alberto, fai il bravo. Cosa stiamo facendo con i cinesi? Stiamo facendo le cose buone e giuste? Abbiamo fatto tanti accordi commerciali, No, è stato solo questo incontro qui, è stato molto centrato sugli investimenti. Perché i cinesi stanno proprio ripulendo le cantine. Cioè, comprano tutte aziende che altrimenti non riusciremmo a vendere, che per i cinesi hanno ancora valore, tipo la saldo energia, tipo le reti, tipo eventualmente la saldo trasporti. Sono aziende che il mondo occidentale non vuole più, che però hanno ancora una tecnologia che può interessare, che può interessare i cinesi. Cioè, non ci stiamo svendendo, no? Quindi, no, no, sì, ovviamente sì, certo. No, sì, come certo, ovviamente? Però beh, certo, cioè, la rete, sì. Abbiamo venduto un terzo della holding che tiene le due reti elettriche del gas. Sì. Sì, vendiamo all'unico compratore che c'è. L'unico compratore era la rete cinese. L'unico che ha i soldi è la Cina. L'unica cosa che mi secca è che facciamo di queste vendite, le celebriamo come se fossero delle vittorie, in realtà sono tutte sconfitte. Sono tutte sconfitte. Sono enormi, caporetto. Eccola là. Ci stiamo un po' svendendo. Ecco. Ma niente contro i cinesi, sono gli unici che hanno fiducia in noi in questo momento, quindi. E poi hanno i soldi. Hanno i soldi, noi siamo un po' al ventre, io ho definito il piede di porco dell'Europa, cioè attraverso di noi riescono a penetrare da sud l'Europa, che altrimenti fanno fatica. In Francia sono riusciti a comprare un pezzo di Peugeot che va male, in Germania non vanno da nessuna parte, e noi siamo con il cuneo che permette ai cinesi di entrare in Europa, di spaccare anche il blocco occidentale. Siamo il piede di porco. Tra l'altro, ma avete visto questa scenetta? Io l'ho vista nel TG della 7, Silvia, ieri. Renzi con la Merkel, no? Quando gli ha detto: beh, buongiorno, buon pomeriggio, ho guardato l'orologio, adesso pomeriggio, sì, buongiorno, siamo flessibili noi. Battutona di Renzi con la Merkel, siamo flessibili noi. È in transagonistica, sì, è un po' come Mourinho, effettivamente è un po' come Mourinho, in questo momento pensa di essere invincibile, e quindi bene così. Mentre invece sono uscite che dobbiamo dire ancora qualcosa sulla legge di stabilità, Forchielli? No, niente, le tasse, questa cosa, si sa, Padoan, ecco come l'ha definita, attenzione, Padoan, oggi un'intervista al Sole 24 Ore, io la definisco una manovra a espansione qualificata. Non ho ben capito. Sì, sì. No, perché ridete? Sì. Questa manovra di fatto sfonda i parametri. Perché? Se fosse per vero, 3%? Ma poi dopo andiamo anche oltre, secondo me. E comunque, se fosse vero che con maggior debito scende il rapporto debito sul PIL, noi a quest'ora saremo il maggior paese creditore del mondo. Secondo questa regola dovremmo essere più ricchi del Kuwait. Invece... Se a fare debito si abbassa il rapporto debito sul PIL, è una formula matematica secondo la quale se avesse funzionato a quest'ora sarebbe altro che i Qatar. Più ricchi del Kuwait. Invece non troppo, no? Non troppo. Non credo. Siamo stati molto bravi a spendere il debito. Devo andare alle informazioni sul traffico, ma prima, cara Silvia, ti vuoi unire anche tu a questa campagna che stiamo facendo Free Rossella Brescia? Dai, fallo anche tu. Ma uniamoci. Sapete che Forchielli magari a Hong Kong queste notizie non sono arrivate, ma Rossella Brescia che lavora, che c'è? No. Su Rossella Brescia io sono indignato. Guarda, danno i permessi di un giorno anche ai rumeni colpevoli di strage stradale. Io non capisco perché RDS non vuol dare un permesso a Rossella Brescia per venire al Parlamento. Cattiveria pura, effettivamente il paragone è un po' strano, ma va bene, effettivamente con questo appellone di Forchielli direi che è fatta, è quasi fatta. Allora dai, andiamo a sentire il traffico, che poi voglio capire questa storia di Berlusconi che è stato attenzione però, il Corriere della Sera dice che uno dei giudici che ha firmato l'assoluzione di Berlusconi si è dimesso dalla magistratura subito dopo aver firmato per polemica con gli altri due giudici perché lui voleva la condanna. Ma rientriamo tra un attimo. 24 mattino. Un anno fa ti sentivo arrabbiato pure io dalla mia azienda italiana. Ora vivo da immigrato in Svizzera, ascolto i podcast e rido tantissimo. Ciao a tutti. Una statistica nazionale redatta da dottori di fama sia nazionale che mondiale hanno detto che i neuroni invecchiando muoiono. Allora io mi chiedo, ma Milen, che non ne ha nessuno, che cazzo gliene frega di queste statistiche? Ma tu al mattino sei ancora addormentato, sveglia, eh? Signor mio, io ci voglio dire questo, perché i politici vengono chiamati politici onorevole ministro, il suo nome vero è delinquente come nome e ladro come cognome. Milan, buongiorno, mi spieghi una roba, ma cosa ci dovrebbe fare Rossella Brescia ospite da te? Che sei perfino geloso che il Luxuria è andato a cena dal Berlusca. Sai come diciamo dalle nostre parti? Muntà e ciappan del chile, mia la stessa roba. Sveglia Milan, sveglia! L'ultimo editoriale, Silvia Brasca, non l'ho capito, era milanese, credo, il dialetto, non so, Forchielli, tu l'hai capito l'ultimo editoriale dell'ascoltatore? Più o meno così. Ma hai sentito quello che quello che dalla Svizzera l'anno scorso era arrabbiato, no? Adesso dalla Svizzera ci ascolta e ride, Forchielli, ride, chissà perché. Ma va, preso la residenza là. Starà meglio là. Tutti i milanesi per la residenza là. Adesso io temo però di chiederti un giudizio su Berlusconi e su Vladimir Putin. Perché? Cioè su Vladimir Luxuria. Quello su Luxuria è meraviglioso perché ho sentito delle voci fantastiche. No, si dice che ci sia stato un torneo di braccio di ferro tra Luxuria e Berlusconi per decidere chi stava sopra. No. Ma penso a te. No. E poi dopo mi hanno detto che sono passati a sorteggio per discutere la posizione del trenino. No. Cioè, chi fa un locomotiva e il vagone di coda. Ecco, vedi Silvia, vedi che non dovevo chiedere nulla. Non dovevo aprire l'argomento, ecco, ho capito. Io riporto voci, informazioni da Arcore, eccetera. No, ma invece. Veniamo a più prosaicamente, Silvia, questa cosa nel caso, il caso Ruby. No, alla questione del caso Ruby. Hai sentito che c'è un giudice che si è dimesso dalla magistratura? Questa è grossa, questa è grossa anche perché Tranfa non è l'ultimo dei giudici, ma una persona anche lui molto seria. Lì è davvero inusuale, però... Cioè, come se non bastassero però quelle motivazioni. Nelle motivazioni ci sono scritte delle cose per le quali un qualsiasi politico in un paese mediamente civile era già sparito da anni, cioè era andato a coltivare le orchidee. E qua siamo qua con il suo entourage che esulta per le motivazioni, la soluzione, avete visto, non c'è stata concussione. Scrivono che c'era un giro di prostituzione ad Arcole, scrivono che lui sapeva che non era la nipote di Mubarak, e questo non basta. Che sapeva che non era, non sapeva che era minorenne, questo diciamo. Sì, ho capito, ma sapeva che era la nipote di, che non era la nipote di Mubarak, che chiama un pubblico ufficiale da Presidente del Consiglio dicendo che la nipote di Mubarak, ma per una cosa del genere si sparisce. Questo Forchielli Forchielli è da un po' che ci diceva queste cose, ma insomma, però Alberto è stato assolto, questo è il dato di fatto. Ma allora, guardiamo oltre, i problemi sono da affrontare, sono giganteschi, sono tutto appartiene. Ci siamo divertiti abbastanza. Sì, però Alberto, tu sei lì a Hong Kong e questo qua io l'altro giorno ho visto ancora la destra non ne ha un altro. Cioè il concetto è ne parlano Hong Kong di... Ne ha parlato moltissimo, adesso non fa più notizia. Basta. E adesso il dramma è capire questa borghesia italiana, la destra italiana, sarà capace di esprimere un leader. A me sembra che Renzi si stia spostando sulla destra e di fatto stia diventando lui il leader dell'area moderata in Italia. Questo un po'. Cioè Renzi di destra, Beh sì, se fa delle manovre un po' populistiche, però sostanzialmente quei discorsi che fa si sta spostando sulla destra. Infatti la sinistra rimane un po' lì attaccata. Qua dobbiamo quasi salutarci a questo punto, caro. Vogliamo sentire Cooperlo, un amico sicuramente di Forchielli, lo so, uno che nel PD. Cooperlo, c'è la Leopolda per Renzi e lui fa il Leopoldo. Ma io non ci volevo credere quando l'ho letto, invece si è detto anche che ho trovato un hotel, l'hotel Leopoldo, sentite. Io mi prenoto gli alberghi andando a fare le iniziative, uso, non so anche voi, Trivago, Booking, perché sono effettivamente molto comodi e convenienti, e ho trovato un albergo, un hotel Leopoldo, e mi è sembrata una battuta a cui non ho resistito. Io non ci volevo credere, ma è proprio vero, Forchielli, ha trovato l'hotel Leopoldo. Sì, è vero, c'è una pensione di Castiglioncello che si chiama Leopoldo. Io credo che non ci sia limite alla bagianata, le è fatto un bagiano anche. Abbiamo sistemato anche tutti i problemi che ci sono, quello va a cercare la pensione Leopoldo. Devi sistemare. Devi sistemare qualcun altro che non abbiamo sistemato negli ultimi 10 secondi? No, spero di no. Direi di no. Abbiamo dato a destra e a manca. No, sai cos'è l'altro giorno? Sì. Cioè, l'altro giorno ho visto Vendola, non so più, con quell'orecchino gli è venuto un lobo che sembra un masai. Cioè, il sinistro che è più lungo del destro. Cioè, Alfano, bisogna dire, Alfano non è che abbia tutti i torti. Perché ha questa storia dei matrimoni gay, insomma. Sì, piuttosto che vietare a Svendola di sgomitare e prendere i bouquet, ma lascia stare, no? fermiamoci qui, Alberto, fermiamoci, perché oggi ti vedo particolarmente caldo. Mi devo fermare, Alberto Forchielli, spero non più arrabbiato con me. Silvia Brasca, grazie, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino.

i selfie dei leader, lo shopping cinese, cosa ha comprato la premier malese, cosa ha comprato e cosa ha mangiato i thailandesi che si sono portati il dessert, riso e cocco avvolti in foglie di banano a Milano sul Corriere della Sera. Ma chi se ne frega? Mattino. Quando sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, ricordate a luglio parlavamo e abbiamo parlato delle unioni civili per le coppie dello stesso sesso, chiedendoci arriverà questo progetto di legge e dicendo in autunno ci sarà questo passo in avanti. Ora, Repubblica racconta che forse ci siamo con i tempi. Si vuole fare una legge per garantire le unioni dello stesso sesso, le unioni tra persone omosessuali, equiparandole di fatto al matrimonio, con due punti sostanziali di differenza: non si chiameranno matrimonio e non ci sarà la possibilità di adottare figli da parte delle coppie omosessuali, tranne, vabbè, nei casi, è un caso particolare, i casi in cui il figlio sia biologico di almeno una delle due persone componenti della coppia. Ne parlammo e lo facciamo anche oggi con Ivan Scalfarotto, che saluto, buongiorno e ben ritrovato. Sottosegretario. Allora, intanto, sottosegretario, ci può dire un qualcosa sui tempi? Perché si dice sempre in autunno, forse quando. C'è un'idea, Renzi pare che voglia presentare questa proposta di legge. Ci può dare un qualcosa di dettaglio sui tempi, quando ci sarà? Guardi, no, posso dirle che sarà presto, nel senso che questo è uno dei pilastri, diciamo così, del programma del governo, in quanto questo è uno dei passaggi per la modernizzazione di questo paese. Quindi si modernizza il paese. Possiamo dire un mese, non so, un mese più o meno. Guardi, come lei sa, soltanto l'altro ieri è stata presentata la legge di stabilità. Ci sono le riforme costituzionali, c'è la riforma elettorale, c'è la riforma del mercato del lavoro, c'è la riforma della giustizia e sono tutte in questo momento all'esame del Parlamento. Glielo dico da sottosegretario ai rapporti col Parlamento. Il Parlamento è molto indaffarato, quindi può anche darsi che la cosa si faccia. Voglio dire, in realtà un disegno di legge c'è già all'esame della Commissione Giustizia del Senato, quello della senatrice Cirinnà, che è sostanzialmente ricalca le cose che lei ha già detto. Quindi se ci sarà un disegno di legge del governo lo vedremo, dipenderà molto anche da come andrà l'iter del progetto Cirinna. Comunque è una cosa che si farà presto. Chiaro, non mi voglio impiccare una data perché no, ma anche perché ci fa capire che poi si rischia l'ingolfamento in Parlamento e non avrebbe neanche senso, esatto, fare un progetto che poi rimane lì ingolfato. Eppure le polemiche sono già risorte, come sa. C'è una polemica che non si aspettava rispetto alle altre, magari alcune posizioni, sì, lei... c'è senz'altro. Mi è dispiaciuto che, non conoscendo probabilmente la materia nel dettaglio, qualcuno, e penso per esempio al titolo di Repubblica che diceva arrivano unioni civili ma solo per i gay, che è un modo di presentarlo un po' brutto, nel senso che sembra che la rimozione di una discriminazione si trasformi nella concessione di un privilegio, no? Quindi stiamo facendo questo solo per i gay perché non ci piacciono le coppie etero. Non è così. E l'errore è tecnico. Diciamo che le unioni civili non sono come i PACS, cioè non sono una forma leggera di disciplina di una coppia che non vuole sposarsi e vuole, diciamo, dei diritti minimi, cioè essere riconosciuti come il parente più prossimo, poter andarsi a trovare in ospedale, eccetera. E l'unione civile alla tedesca, si chiama così perché in Germania è così, è soltanto per i gay, perché è proprio come il matrimonio, cioè si assomiglia moltissimo ma con un nome diverso, perché si ha timore di dargli lo stesso nome. In altri paesi, tipo la Spagna, l'Olanda, la Gran Bretagna, c'è il matrimonio e basta. Però guardi, la polemica... Quindi che senso ha, concludo, che senso ha... Sì. Per una coppia eterosessuale fare l'unione civile se poi i diritti e i doveri sono gli stessi del matrimonio. Certo, però guardi, questa polemica a cui lei fa riferimento l'ha fatta anche per esempio Roberto Giachetti, che è del suo stesso partito, ha un passato radicale e che dice proprio questo: ma come facciamo una legge che equipara le unioni dello stesso sesso al matrimonio, ma invece per le unioni tra due persone di sesso diverso che però non si vogliono sposare, cioè quei diritti che vengono garantiti alle persone dello stesso sesso non devono essere garantiti garantiti, mi riferisco alla reversibilità, all'ereditarietà, anche alle persone che non vogliono sposarsi ma sono di sesso diverso? No, ma guardi che il problema è che Giachetti dice per rimuovere una discriminazione se ne crea, diciamo se ne crea un'altra. Sbaglia invece, perché noi la discriminazione non la stiamo rimuovendo, la stiamo attenuando, nel senso che l'unione civile conferma una discriminazione, perché mentre in Spagna le coppie omosessuali si possono sposare e lì si è rimossa la discriminazione, qui potranno fare l'unione civile, quindi non si è rimossa la discriminazione. Allora le coppie eterosessuali che volessero il contenuto dell'unione civile ce l'hanno già da secoli, si chiama matrimonio. Se però coppie etero e gay che non vogliono sposarsi perché non vogliono i diritti ma anche i doveri, e nessuno può obbligare qualcuno a prendere dei doveri contro la sua volontà, bisognerà fare una cosa più leggera, che potrebbe essere tipo i Pax alla francese. Però per spiegarci, chiedo scusa, l'unico posto dove esiste Pax e matrimonio è la Francia, perché in Francia furono fatti prima i Pax. Ora esiste il matrimonio, ma si badi bene, sia i Pax che il matrimonio sono aperti a etero e gay. Però una cosa che ancora non ho capito, insistendo su questo punto, mettiamo che passano domani queste unioni civili, per cui due persone dello stesso sesso fanno un'unione civile e hanno tutti i diritti e doveri di due persone sposate eterosessuali. Questi diritti e doveri invece non li ha chi è eterosessuale e non è sposato, deve fare questo passaggio in più. Quello di sposarsi. Ma forse neanche li vuole, perché se due persone eterosessuali non si sposano o due persone omosessuali non fanno l'unione civile, è perché magari hanno deciso di non diventare l'erede l'uno dell'altro. Pensi a due persone che si mettono insieme a 60 anni e che magari hanno i figli grandi e che magari non vogliono che la morte dell'uno renda gli eredi i figli dell'altro eredi di quello che muore prima, e quindi decidano di avere una relazione più lasca. Ora, noi possiamo mai costringerli a dirgli guarda, ti devi sposare per forza? No, allora per loro che cosa vorranno loro? Probabilmente vorranno potersi andare a trovare in ospedale, che nessuno faccia come successe a Rossana Podestà, che dopo 50 anni di vita con Walter Bonatti, quando Bonatti stette male, le dissero lei signora chi è? Queste sono le stranezze all'italiana. Dopodiché in tutto il mondo, per esempio in Spagna, c'è il matrimonio, per cui etero gay che tu sia, ti sposi. Se non ti sposi, non ti sposi. Questo succede in Spagna, questo, non è che c'è un'altra cosa. Questa è una posizione chiara. Le chiedo, indipendentemente dalla legge, lei già ci spiegò che forse sull'adozione bisogna andare per step, per gradi. Intanto facciamo queste unioni civili, poi l'opinione pubblica si convincerà anche magari della possibilità di poter adottare. Mi dica lei personalmente, lei pensa che si debba poter adottare figli anche per le coppie omosessuali? Guardi, io penso questo, che un minore sta meglio con una coppia che viene considerata idonea ad adottarlo che in un istituto. Questa è la mia opinione. Nell'interesse del minore bisognerebbe guardare tante coppie possibili pur di togliere un bambino dall'istituto, e ovviamente la coppia dovrebbe essere scelta con molto rigore. E certo, questa coppia, secondo me, deve essere bocciata alla fine di un processo, non all'inizio. Cioè io ti esamino e ti boccio, non è che ti boccio non in quanto omosessuale. Quindi questa è secondo la mia posizione. La sua posizione personale la prendo come un sì, diciamo, possiamo dire. Ma questa è la mia posizione, diciamo, personale, ha una sua logica rispettabile, credo, poi ci può essere d'accordo o non d'accordo. Dopodiché il problema è che l'adozione del minore abbandonato, con le difficoltà che ci sono in Italia, è un fenomeno statisticamente di nicchia, purtroppo. Il problema invece è che abbiamo migliaia di bambini che già crescono in famiglie omosessuali, nel senso con due papà o due mamme, e che ci piaccia o meno, quei bambini vanno tutelati, perché se il genitore biologico muore, il bambino magari dopo aver vissuto 10 o 12 anni con l'altro genitore è come se fosse un minore abbandonato, perché l'altro genitore non ha nessun rapporto giuridico con quel bambino, nessuna responsabilità pur avendolo cresciuto. Però allora l'urgenza è sistemare questa roba. Però lei conferma che nella legge che ci sarà al momento l'adozione viene esclusa, proprio per non, guardi, per non andare un po' troppo avanti, non guardi, correre troppo. Io vorrei che noi smettessimo, ma non solo su questo tema, su tutti i temi, di essere quelli che hanno la velleità di costruire un mondo perfetto tra 200 anni. poiché la gente ha l'urgenza di vivere, io delle velleità, perché io ieri a Giachetti gli ho detto: Giachetti, poi Giachetti a un certo punto mi ha detto: facciamo il matrimonio per tutti, e io gli ho detto: Roberto, se sei in grado fallo subito, ma io non posso aspettare 20 anni, perché le persone hanno l'urgenza della vita. I tempi della storia, per la storia 20 anni sono niente, o 30 anni sono niente, sono una goccia nel mare, ma per la vita della gente che campa e che deve portare avanti la propria esistenza tra mille difficoltà, 30 anni sono una specie di strada lastricata di dolore. Allora noi non possiamo dire: facciamo velleitariamente il matrimonio. Allora, se Giachetti è in grado di convincere il governo, la maggioranza, il Presidente del Consiglio e il Parlamento a fare i matrimoni per tutti domani, io ci metto la firma e gli pago da bere. Però io ho bisogno di avere una legge che sostanzialmente protegga i cittadini e garantisca loro l'uguaglianza. E oggi e non domani. Le chiedo, l'apertura, o così si legge, presunta tale, di Berlusconi su questi temi, la preoccupa, la spaventa, la guarda con sospetto o la guarda con ottimismo? No, la celebro. Guardi che i matrimoni gay esistono, e quindi l'uguaglianza tra persone omosessuali e eterosessuali esiste in fior di paesi governati dalla destra. David Cameron non è un uomo di sinistra, Mariano Rajoy in Spagna non è un uomo di sinistra, Angela Merkel certamente non è una donna di sinistra. La sinistra liberale in tutta Europa è a favore dei diritti delle persone. Guardi, questi non sono temi di destra o di sinistra, questi sono temi legati alla civiltà. Però in Italia gli schieramenti politici fino a questo momento, dopo questa apertura di Berlusconi, erano abbastanza chiari. Gli schieramenti... Purtroppo, io direi purtroppo, perché si faceva di queste questioni ideologiche. Fin tanto che queste questioni saranno ideologiche, saranno le questioni di una parte, non saranno mai risolte, perché è chiaro che se si lavora in una sorta di contrapposizione non si arriva mai a una sintesi. Se ci si renderà conto che l'uguaglianza, il rispetto, l'inclusione sono patrimonio della nazione, sono patrimonio della nostra comunità nazionale, allora sarà scontato per tutti che la discriminazione è un non senso, che dare diritti alle famiglie omosessuali non toglie niente a nessuno, ma rende questo paese migliore. Le faccio un'ultima domanda personale, se me la consente, ma mi è venuto in mente quando lei ha detto a Giachetti, ho detto: non posso aspettare tra 30 anni e 40 anni. Lei, Ivan Scalfarotto, vorrebbe poter adottare un bambino? No. Però vorrei poter essere sicuro che se in questo momento mi prende un coccolone, il mio compagno di 10 anni possa ritornare a entrare in casa senza che nessuno gli tolga le chiavi. E questo è un bisogno base, oppure sapere che se domani dovessi avere un problema di salute, qualcuno dovesse decidere della mia vita, fosse la persona con la quale io ho deciso di condividere la mia vita e non magari mia madre, che è una persona che amo moltissimo, ma con la quale non vivo più da quando avevo 18 anni. Allora io vorrei semplicemente che i miei doveri, i miei diritti, gli impegni che io ho preso, il mio progetto di vita avesse dignità davanti alla comunità alla quale appartengo, la quale comunità, Milan, è esattamente la sua comunità. La ringrazio, buona giornata. Ovviamente staremo a vedere come procede questa riforma che è stata annunciata. Ivan Scalfarotto, sottosegretario alle riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento. Dopo la pubblicità invece cambieremo tema, parleremo di un episodio incredibile che è avvenuto purtroppo di violenza nelle scuole, una ripresa filmata in una scuola di Treviso in cui si vedeva un maestro elementare utilizzare metodi bruschi, violenti nei confronti dei bambini. Solo che questo maestro pare fosse già la terza volta, quindi recidivo, in altre scuole si era già comportato così. E come mai era ancora lì a insegnare? Cercheremo di spiegarlo tra poco. 24 mattino. Sono le 8:39 minuti. Allora, chiunque abbia dei figli, e io ne ho due, vanno in terza e prima elementare, e li affida quotidianamente alle cure dei maestri, degli insegnanti, sa quanto sia importante questo rapporto di fiducia e quanto sia anche delicato. E chiunque sia genitore, per la verità anche chi non lo è genitore, ma chiunque si imbatta nel video che potete trovare anche su internet di questo insegnante di scuola primaria che è stato trovato a Treviso utilizzare ceffoni, sberle, schiaffi, tirate d'orecchie, torsioni di braccia, calci nei confronti dei propri alunni di prima, seconda, terza elementare, beh, non può che rimanere scioccato. Questo insegnante è stato sospeso alla fine perché con un'inchiesta hanno piazzato delle telecamere nascoste in questa classe che diventava una classe dell'orrore. Ma questo insegnante era già al terzo caso, era stato denunciato da un genitore in un'altra scuola perché usava gli stessi mezzi, e allora il dirigente scolastico aveva lanciato questa inchiesta alla procura. Nel frattempo però, siccome la giustizia civile e penale in Italia è civile, la giustizia comunque è lenta, questo insegnante continuava a insegnare, l'hanno cambiato di scuola, ha avuto una terza segnalazione, alla fine l'hanno sospeso perché le immagini parlano chiaro, ora non si può più chiudere gli occhi. Come sia possibile tutto questo, cioè la vicenda dell'insegnante Fernando Cadicamo, 55 anni, in una scuola di Treviso, ne vogliamo parlare con Paolino Marotta, che è il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Buongiorno, presidente. Buongiorno. E voglio salutare un insegnante di scuola primaria a Ricengo, provincia di Cremona. È un giornalista, è autore di tanti libri sulla scuola, l'ultimo è Gita in pianura. Tiene anche un interessante blog su Huffington Post, giusto? Alex Corlazzoni. Stato Quotidiano. Ecco, sì, infatti. Stato Quotidiano. Questo sì, buongiorno, momento... buongiorno ai radioascoltatori. Avevo avuto un flash, ho detto: oddio, è Fatto Quotidiano o l'Huffington Post? Beh, è sul Fatto Quotidiano, Alex Corlazzoli. Che intanto chiedo, da insegnante, che prova Corlazzoli? Perché c'è questo rapporto di fiducia quotidiano, che uno vede questa immagine, per carità, è una mela marcia, ma viene messo a dura prova. Tristezza, più che rabbia, che sicuramente la possono provare i genitori di questi ragazzi, io provo una grande, grande tristezza. Perché non solo questo non deve venire, ma questo deve essere impedito, e c'è anche il modo per impedirlo questo, ne parleremo oggi. Insomma, io trovo sempre, lo dico subito, trovo sempre assurdo, veramente assurdo, parlavo proprio ieri con un mio amico spazzino, per selezionare uno spazzino in Italia viene fatto un colloquio, chiaramente, viene guardato in faccia chi è l'operatore ecologico che viene mandato a lavorare sulla strada, insomma, e a rapportarsi anche con le persone, in qualche modo con in mano la sua scopa. In Italia per selezionare un maestro non viene neanche fatto un colloquio, vengono mandati nelle classi dai nostri figli, con i nostri bambini, senza che vengano visti in faccia. Diciamo, basta il concorso, anche se in questo caso era un precario, ecco, però un concorso chiaro non valuta la graduatoria. Essendo precario, io che sono precario, scatto in graduatoria nel momento in cui vieni selezionato per quella scuola, nel momento in cui scegli quella scuola, vai a finire lì. E magari se il preside, se il dirigente, ora abbiamo una rotta che sicuramente potrà confermare questo, ha 400 docenti, non ha neanche il tempo di vedere da qui a giugno quel docente lì in faccia una volta. Sì, c'è da dire, presidente Marotta, che quella cosa che ha colpito, io so che i dirigenti scolastici dicono abbiamo le mani legate, nel senso che se anche volessimo in qualche modo allontanare una persona perché sappiamo o abbiamo dei sospetti che faccia così, come in questo caso, abbiamo le mani legate, c'è la magistratura che deve indagare, c'è il provveditore che deve stabilire, il ministero che deve decidere, però Marotta, non è così. Assolutamente. Beh, bene. E allora perché era lì a insegnare questo insegnante? Beh, intanto l'ha già detto il professore, la posizione in graduatoria ti consente di ricevere una supplenza. Poi ecco, il controllo sull'attività, sul comportamento in classe diventa difficile se la scuola è complessa, se il personale da gestire è numeroso. Ma aveva una denuncia. Aveva una denuncia, e quindi credo che sia, come dire, censurabile il comportamento dei colleghi che lo hanno gestito in presenza di una denuncia. Senta, il codice disciplinare degli insegnanti non è stato rinnovato perché non è stato rinnovato il contratto del comparto scuola, però insomma le sanzioni sono previste e sono quelle ancora riportate nel testo unico del 74. Però il decreto Brunetta, il decreto legislativo 150 del 2009, ha previsto nuove procedure individuando il dirigente scolastico, questa volta effettivamente responsabile del procedimento disciplinare. Quindi sì, le lungaggini che c'erano prima del 2009, ecco, rivolgersi alla commissione di disciplina e proprietariato, non ci sono più. Però quindi... mi perdoni Marotta, cioè la denuncia nei confronti di questa persona è partita, leggo sulla tribuna di Treviso, è partita da Gianni Maddalon, che è il dirigente di un istituto di Treviso dove prima di questa scuola insegnava. Cioè, allora, voglio dire, di un altro dirigente che ha detto, guardate che da noi lui faceva così, evidentemente, questa è la denuncia. Allora noi in base a questo decreto legislativo 150 abbiamo l'obbligo, diversamente andiamo sanzionati noi, in presenza di notizie di reato, di comportamento disdicevole o riprovevole, questa infrazione è punibile, di minore gravità, sì, quindi punibile con la privazione della retribuzione fino a 10 giorni e di competenza del dirigente dell'istituzione scolastica. Se invece è più grave, diversamente, entro 5 giorni il dirigente ha l'obbligo di trasmettere la notizia del comportamento riprovevole dell'infrazione ad un ufficio, no, non al ministero, all'ufficio per i procedimenti disciplinari che capisce che è lì che si è innestata questa lunga trafila. Ma non è lunga. Allora, dato di fatto è che questo insegnante stava a insegnare, e insegnare è anche una parola, un verbo che non vorrei associare a questa persona, e faceva quello che faceva. Però aspetti, mi lascia andare un attimo, tornare da Alex Corlazzoli, torniamo poi su questo tema, Marotta. Qui Corlazzoli, insomma, Marotta ci dice che le procedure ci sono più snelle, il dato di fatto è che era lì così e continuava. Sì, al di là delle procedure, ora possiamo sicuramente, Marotta ha sicuramente ragione, tra l'altro dico spesso queste procedure sono lunghe per tutelare anche i maestri, perché bisogna dirlo, sono capitati anche casi in cui i bambini abbiano inventato, i bambini spesso che inventano, ma ora al di là di queste procedure lunghe, abbiamo bisogno di cambiare il modello proprio di scuola, perché c'è un concetto fondamentale: bisogna star bene per far star bene. Questo maestro non stava bene, questo maestro aveva evidentemente dei problemi e nessuno ha preso questo maestro, non dico solo per le orecchie, potevano anche prenderlo per le orecchie chiaramente, ma nessuno ha preso questo maestro e in qualche modo ha lavorato con lui prima di arrivare a questi punti. Allora, ritorno a un concetto fondamentale: il preside sicuramente che ha segnalato eccetera non ha neanche avuto magari la possibilità di mandare quel fascicolo al preside successivo, perché ogni volta che io, precario, maestro precario, capito in una scuola diversa, il mio fascicolo non viene neanche trasmesso, anzi lo rifaccio tutte le volte in una scuola. Non deve più accadere. In un'azienda normale, insomma, c'è un responsabile del personale che si occupa del personale. Nella scuola italiana c'è un dirigente che deve occuparsi di tutta la questione amministrativa, di tutta la questione del personale, di trovare i finanziamenti per la scuola, e così alla fine sì, i maestri restano abbandonati nelle classi, chiaramente, a fare quello che vogliono. Anche che perché vogliamo ripartire qui dopo il traffico. La prima denuncia è stata fatta nel 2004. Nel 2004, se non arrivavano le immagini dei magistrati, della polizia, che su ordine dei magistrati ha messo le telecamere, e di fronte alle telecamere è arrivato la magistratura con un provvedimento di sospensione nei confronti di questo presunto insegnante. Se no, poteva continuare ad andare avanti. E chissà in questi 10 anni, chissà in questi 10 anni quanti bambini sono passati per le sue mani con quei metodi che potete vedere nel video. Dopo il traffico rientriamo. 24 mattina. Allora, vorrei dare la parola ad Andrea, ci chiama da Roma. Andrea, buongiorno. Buongiorno, io volevo raccontare la mia esperienza personale. Io botte ne ho prese abbastanza alle scuole elementari. Sì. Per quando mi comportavo male, quando parlavo, diciamo, sono stato uno studente medio, anche ho fatto tutto il mio percorso, mi sono laureato. Venivano menati anche i miei compagni di scuola nelle altre classi. Sì. También. Non sono stato traumatizzato in maniera particolare. I miei figli, perché adesso ho 2 bambini di 12 anni, non sono mai stati picchiati, anche se le botte le hanno prese da noi. a scuola non sono mai stati picchiati, io vedo, diciamo, con i miei occhi quando vengono chiamati i loro compagni di scuola, quelli, diciamo, più che si comportano peggio, vedo questi genitori che arrivano ai colloqui con i professori, i quali sono scocciati di essere chiamati. Ma lei ci sta dicendo le botte educative. Le botte non le hanno prese né i bambini né loro. Qui però, allora, Andrea, lei sta dicendo che dalla sua esperienza, Corlazzoli, giro a lei la considerazione così, la giro asetticamente da parte di Andrea, le botte educative evidentemente, qui. Non esistono botte educative, soprattutto devo dire che insomma, c'è anche differenza tra botte e botte, lo scappellotto del padre, insomma, appunto. Chi non l'ha preso. No, se vedete questo video, c'era questo insegnante che si avvicinava a uno perché magari si alzava, lo tirava per, gli torceva il braccio e lo portava fuori dalla porta, voglio dire. Ma soprattutto con dei bambini, Milan, di 6 e 7 anni, soprattutto, esatto. Ma non è possibile. Dico, o lo scappellotto che magari il professore della scuola superiore dà un quindicenne, al di là che io non lo considero, insomma, quello sicuramente un professore non può educare uno così, non si educa a scappellotti, ok? Allora dico, ma con dei bambini di 6-7 anni che non sono in grado sicuramente di decifrare con lo scappellotto, insomma. Anch'io ho preso qualche scappellotto da mio padre e anche non c'è dubbio. Marotta, io vorrei tornare a lei e chiedere, perché una cosa, lei ci ha citato delle leggi, però le faccio la domanda proprio se mi riesce a rispondere sì o no. Con le leggi attuali, con le denunce che arrivavano, le voci, e la prima denuncia del 2004, un dirigente scolastico secondo lei avrebbe potuto fermare questo insegnante? Sicuramente sì. Perché le leggi ci mettono in condizione di sanzionare questi comportamenti che sono assurdi, e perché a questi comportamenti deve corrispondere una sanzione che può essere anche il licenziamento, perché l'articolo un articolo glielo cito. Vabbè, ma non importa l'articolo. 150. Siamo per un paese in cui ci sono condotte di questo tipo, sono condotte aggressive che ledono la dignità della persona, prevede il licenziamento. Allora c'è bisogno di fare il procedimento. Però dal 2004 era lì. No. Sentiamo, ma o il dirigente, mio collega, o l'ufficio regionale avrebbero dovuto avviare la contestazione di addebiti e quindi combinare la sanzione, il dato di fatto che non hanno fatto, quindi è censurabile il comportamento dei miei colleghi, ma anche dell'ufficio regionale. Che devo dirle? Massimo da Genova, buongiorno. Buongiorno Milan, una domanda, una curiosità, perché è stata un'esperienza personale. Un preside di un liceo, quindi parliamo di ragazzi più grandi, ci ha detto in un'occasione di una riunione con dei genitori che lui non aveva la minima possibilità di agire o di rimuovere o di spostare una professoressa che aveva la manifesta incapacità di rapporto con gli studenti, cioè qui non parliamo di violenza perché ragazzi grandi, però era una professoressa che aveva dei problemi forse sui personali. Perché non si poteva? Ecco, lui ci ha detto questo, ha detto io ho le mani legate, nessun regolamento mi consente di agire su questa situazione. Vabbè, Massimo, e noi siamo rimasti abbastanza basiti, posso immaginarlo. Sì. Alex Corlazzoli, vabbè, al di là del regolamento, vorrei concludere con una domanda pedagogica, se vuole. Io ho visto questo video più volte e ho visto, è un video senza sonoro, ma si capisce il terrore dei bambini quando questo insegnante si avvicinava e i bambini si rannicchiavano coprendosi la testa, come dire no ti prego non farmi niente. Ecco, a questi bambini e a quelli per le mani passati da questo presunto insegnante, cosa può rimanere di tutta questa esperienza? Questi bambini rimane sicuramente il fatto che di aver perso fiducia. Spesso proprio i bambini sviluppano il loro senso di fiducia nei primi anni scolastici, proprio perché si affidano proprio al maestro, e nell'affidarsi al maestro acquisiscono fiducia, addirittura spesso ci emulano, addirittura vengono a scuola imitando il maestro, imitandolo anche al di fuori della scuola. Che tipo di imitazione potranno avere di questo maestro? Che tipo di fiducia avranno acquisito? E allora io anzi ho pensato al domani di questi bambini. Io spero e mi auguro che sicuramente da ora in poi si inizi a lavorare non su perché spesso poi si manda lo psicologo che lavora su i bambini, ma si inizia a lavorare con loro per ridare sicurezza a questi bambini. Il passaggio fondamentale è su e con. Spero davvero che tutte le volte capitano questi orrori, non errori, nella scuola, perché questi sono orrori causati dagli errori, sicuramente si lavori con i bambini che sono comunque in grado perlomeno di capire alcuni passaggi fondamentali. Allora, io intanto vi ringrazio. Di Alex Corazzoli voglio ricordare l'ultimo libro, Gita in pianura, una classe a spasso per la bassa, edito dalla Terza, ma l'ha scritto tanto sulla scuola, e sul Fatto Quotidiano lo leggete come blog. Grazie a lui, grazie a Paolino Marotta, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Ci fermiamo qui, a lunedì. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.